Tempo per ciò che voglio di più ha sempre fatto parte di me, e questo può far male anche a chi mi ama e non mi crede più. Penso ai momenti con te e sembra che i giorni non passino mai. Di giorno, quando tu non ci sei, comprendo che non ti lascerò mai. Sempre di più, e dentro e fuori di te io ci sarò, e quando ti senti sola canta questa canzone, c'è poco del mio respiro dentro te. Sì, sono tutti per noi, mi sento forte e chiara oramai. Di notte, quando tu non ci sei, comprendo che non ti lascerò mai. Sempre di più, e dentro e fuori di te io ci sarò, e non sarai mai più sola, perché hai qualcosa di me, c'è il fuoco del tuo respiro dentro me.